È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Leader della sinistra, sempre incazzati. Io ho capito perché sono sempre incazzati, perché dovendo venire in Parlamento si devono fare la barba, allora sono costretti ad andare in bagno, non è che si lavino molto, ma comunque per la barba devono andare in bagno. In bagno cosa fanno? Accendono la luce, si vedono nello specchio, si sono già rovinati la giornata. Beh, allora Davide, qui siamo arrivati alla conclusione, sì, perché mancava un pezzo, no? Cioè, ecco, l'interpretazione che abbiamo dato ieri sera di questa frase era che siccome devono andare in bagno, sono sporchi e non va ai leader di sinistra di andare in bagno, allora iniziano la giornata incazzati. Invece c'è una vecchia cosa che Berlusconi ripete da tanto tempo, sì, cioè sì, vanno in bagno, si guardano allo specchio e dunque, non so, vedono di essere brutti, immagino che voglia dire questo Berlusconi, e dunque iniziano la giornata incazzati. Sì. Abbiamo con noi qui in studio una persona che ti presento tra pochissimo. Questa è la zanzara, sì, come gli ascoltatori hanno potuto... Buonasera Cruciani, buonasera ai suoi ospiti. Dove ti trovi, scusa David? Mi trovo sulla terrazza del Cesari, Piazza di Pietra, con quattro bruttissime turiste tedesche, ma di una bruttezza adesso disarmante. Tu fai come Berlusconi, fai, cioè, sì, pregiudizio. Magari sono di sinistra. Sono di sinistra, mi suggerisce l'ospite che fra poco ti presento, sì, che magari sono di sinistra, sì, tedesche di sinistra, no? Della Merkel. No, sono identica alla signora Merkel, ma volevo dirti che io ormai ho Berlusconi in me, come dice Gaber, il problema non è Berlusconi in sé, Berlusconi in me. Che è una stupidaggine questa, per carità, detto con tutto il rispetto per Gaber, secondo me è una stupidaggine. Comunque, a proposito della questione della sinistra che non si lava, ci sono un paio di interventi che ti voglio fare sentire. Non è che la questione sia fondamentale, però ne abbiamo discusso ieri. Serracchiani. Sì. Onestamente sarebbero incommentabili queste dichiarazioni. Posso capire però che ci sia un problema da parte di chi probabilmente non si lava ma si strucca soltanto, ma credo francamente che in questo momento l'Italia abbia bisogno di parlare di cose un pochino più concrete. Vabbè, questo è abbastanza scontato, c'è l'ultima parte, e poi fioccano le battute. Bersani, per esempio, la prende un po' seriamente, sentiamo. Noi cerchiamo di essere gente seria, e se ci laviamo poche perché siamo abbastanza puliti. E vabbè, questa è buona. Che abbiamo? Della Valle, ieri non so dove, sentiamolo. Non vi sentite a disagio quando vedete gente come Scilipoti, queste persone che in un certo senso, a gente come voi che conoscete la politica, ma lo dico anche a lui, cioè... Della Valle, tanto, era una domanda per Sani, ma tutti e due, non l'ho capito, era una domanda per Sani. No, tutti e due, dico, tanto per quello l'ho fatta, no? A tutti e due, c'è, cioè, chi l'ha candidato prima e chi l'ha preso dopo. Della Valle. Numero uno della Valle for president. Bravo. Beh, adesso non esagerare, insomma. Numero della Valle uno, for president. Qualcuno potrebbe non essere d'accordo. Chi se ne frega? Di Pietro, Berlusconi è il nostro Gheddafi. Questa è la solita cosa. Oggi la Finocchiara addirittura ha detto che si può paragonare a Mussolini. Lo facciamo sentire, Di Pietro, ce ne freghiamo. Che dici? No, ma sei la solita roba. Facciamo È la solita roba. Fassino di ieri è stato lapidario su Berlusconi. Fassino di ieri, ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, che era il nostro ospite Fassino ieri a Torino. Sentiamo, dai. Poi andiamo al clou, consiglio che usa, sì, questo argomento è alla frutta. Cioè, se uno non ha nessun altro argomento che offendere i leader dell'opposizione in questo modo, francamente, diciamo, di meschina volgarità. Nessuno di noi si è mai messo a ironizzare sui tacchi delle scarpe di Berlusconi. Tutte stupide. Stronzate, lo possiamo dire. Sei stronzate. Stronzate. Ecco. Abbiamo qui Milly Moratti. Buonasera. Buonasera. Eccoci qui. Poi la zanzara mi piace molto. Come mai? Che cosa le ricorda la zanzara? Il giornale mitico della mia scuola. Era la sua scuola, il Parini. Certo. Io mi sono ispirato a quello in realtà come titolo. Ha fatto bene. Come le porterò tutti i numeri critici. E diciamo che avendo frequentato una scuola simile a Roma, diciamo, assimilabile al Parini, se fossi stato a Milano probabilmente sarei andato al Parini, forse, ma chissà. Anche lei ha fatto il classico, Cruciani. Io sì, ho fatto il classico, così non si sente ogni tanto. Bravo, no, anch'io. No, io, la mia ignoranza crassa non lo lascerebbe pensare. No, no, so, bravo, Cruciani, che hai fatto il classico. Sai, una volta mi hanno rimproverato di non conoscere qui alla radio, lo sapete tutti, Umberto D. Film Umberto D. Non mi ricordava, non lo sapevo. Lei sa che cos'è Umberto D? Sì, naturalmente. No, no. Nemmeno lei, ma infatti la signora Mimmi Moratti, che si presenta, come sapete, con la sua lista a Milano, lista civica Mila Moratti, in sostegno di Pisapia, non sa anche lei cos'è Umberto D, un film storico di De Sica, Zavattini, eccetera, eccetera. Vabbè, ma non fa niente, si figura, non lo sapevo nemmeno io che sono il conduttore di questa trasmissione. Però oggi la presenza della signora Moratti cade a fagiolo, come si dice, perché c'è stato Milli Moratti, poi faremo tutte le distinzioni del caso, perché c'è stato l'epico scontro tra Pisapia e la signora Moratti, in cui cos'è una vergogna? No, una vergogna, Letizia, quello Moratti. Che ho sentito oggi è una vergogna, un attacco inutile a mani basse e anche sciocco. Bisogna leggere le carte, signor Sindaco. Hai rubato una macchina quando facevi l'estremista di sinistra, ti querelo, è tutto falso, questa è la sintesi. In sostanza, devo dire che un primo esame delle cose ha ragione il signor Pisapia, perché lui è stato assolto con formula piena, invece la Moratti si è fermata al primo grado e all'amnistia. Comunque sentiamo 30 secondi della prima parte di questo scontro. Continueremo in una politica moderata perché la mia formazione professionale è una formazione professionale moderata, vengo da una famiglia moderata, tutta la mia vita ne è una testimonianza, credo, a differenza del candidato Pisapia, che è stato dalla Corte d'Assise giudicato responsabile di un reato, il reato di furto di un veicolo che doveva essere un veicolo per il sequestro e il pestaggio di un giovane. Corte di Assise, sentenza della Corte d'Assise, giudicato responsabile e amnistiato. L'amnistia non è assoluzione. Il nostro faccia a faccia termina qui. C'è una seconda parte? Andiamo? Termina qui. No, perché invito tutti, invito i nostri candidati. C'è un falso di cui rispondere. Stretta di mano. Le sentenze finali sono quelle. Spero. Invito a una stretta di mano finale. Se lo volete. È una cosa vergognosa. È una sentenza della Corte d'Assise. No, c'è un appello. Lei lo sa che ci sono tre gradi di giudizio. Purtroppo il nostro tempo è terminato. No, grazie e arrivederci. Questa cosa è. Pisapia poi ha rifiutato un'intervista a Sky TG24 su questo tema e soprattutto ha rifiutato di stringere la mano alla signora Moratti. Ha fatto bene? Ma sì, perché... Cioè, ha fatto bene a rifiutare la stretta di mano finale? Ma sicuramente, ma basta fare gesti formali. Io credo che ci sia veramente pazzia in giro, perché prima le parole di Berlusconi, ma è matto, voglio dire, non possiamo avere un quelle pazzo. Quelle sulla sporcizia, lei dice? Ma sì, non possiamo avere un pazzo. È un pazzo, addirittura, un pazzo. Ma sì, ma... Milli Moratti, Berlusconi è un pazzo. Ma sì, se dice queste parole, sì, veramente. E non possiamo... anche sua cognata? Ma e lei è stata scorretta veramente, prima di tutto a dire questa cosa. Bugiarda, dica, è una bugiarda. No, adesso lei non mi faccia dire le cose come quelle di un giorno da pecora che alla fine estrae solo il sunto. No, è stata per scorretta forza, questo perché siamo noi, siamo ha noi. Usato un pezzettino di qualcosa che voleva dire, perché sì. Poi la cosa vera è che è stato assolto con formula piena, con sentenza passata in giudicato, quindi... Se uno ha una falsa testimonianza contro, anche lei le potrebbe capitare, sì. Sa, passa per la strada, uno dice, ah, quello lì l'ho visto, aveva tirato sotto un pedone. Vabbè, che sia stata scorretta, non c'è dubbio, almeno così quindi, sembra la replica della Moratti. Ma mi riferivo al primo grado, beh, però non può essere una giustificazione, poi... soprattutto detto da un esponente di centrodestra che fa sempre del garantismo la sua bandiera. Appunto. Ma voglio dire, però si può dire, mia cognata è stata una bugiarda in questo caso, perché non vuole utilizzare la parola bugiarda? L'ha utilizzata Pisapia la parola bugiarda? Io dico che è stata scorretta, perché a me interessa anche puntualizzare sul fatto che l'ha usato negli ultimi 10 secondi, sì. In cui non c'era diritto di replica. Vabbè, gli è un unici... po' una paraculata, lo dico in senso così, una cosa che si usa di solito, dare una però bisogna dire anche le cose corrette, naturalmente. Bisogna... È a gamba tesa, alla fine, è un intervento a gamba tesa. Beh, alla fine si ricorda Berlusconi con l'ICI, no? L'ultimo la riduzione dell'ICI, l'eliminazione dell'ICI. Sempre da quella parte però si usa questo intervento. Vabbè, ma sono tecniche di campagna elettorale, importante dire cose vere però. Scorrettezza e usare anche... Bugiardo non lo vuole dire, mia cognata è stata una bugiarda. No, io dico che è stata una disinformata. Disinformata e scorretta. Sono sicura che non che si non è curata sapeva? Di controllare queste informazioni. Ah, non lo sapeva secondo lei? Ma, scusi, se lo sapeva, secondo lei lo diceva con tutte le conseguenze del caso? Tanto, anche non se, c'è logica. Secondo lei la querela di Pisapia le fa paura da un punto di vista... peculiare. Secondo me le può far paura dal punto di vista di quello che muove nell'opinione pubblica e lo muove velocemente perché la gente è stanca di queste cose. Assolutamente. Traffico. Deve vendere Ibrahimovic adesso per pagare Pisapia. Ma guardi, tu non capisci niente di calcio. Lui è rimasto un po' preso. Non capisci nulla di calcio. Adesso perché Ibrahimovic è il centravanti del Milan che non c'entra nulla con la famiglia Moratti. Con la famiglia Deve vendere chi? Ma Moratti non c'entra niente. La signora Moratti non c'entra nulla con l'Inter. È il marito della signora Milli che è presidente. Ma non lo sai, non lo sai. Hai detto Ibrahimovic, sei informati prima anche tu, sei come la signora Moratti, non si informa prima di parlare. Volevo fare una figura alla Moratti, scusa, ti stringo la mano, salvo tutto, giusto? Traffico. Comunque ha fatto bene a non stringere la mano a Pisapia. Certo, perché Pisapia ha fatto bene a non stringere la mano a, sì, perché a ora cognata. Di piantarla con col la bon ton, formalità col il bon ton. E allora lei dica bugiarda se basta col bon ton. Bugiarda, ma mia cognata, bugiarda. Perché io sono convinta che non si sia informata correttamente. Ah, lei sono dice, convinta. Dice non lo sa, ancora peggio. Quindi, dice, ancora peggio. Ancora peggio secondo me. Ah, bella è questa qua. Peggiore. Ancora peggio non lo sapeva. Bene, siamo qui 800 24 00 24, accertata l'assoluta ignoranza di David Parenzo in tema calcistico, però non infierisco. Vabbè. David, non infierisco. Ma non è una notizia, non è una notizia. È una notizia, però uno non parla, no? Però lasciamo perdere, non ci fa niente. Mi sta chiamando sotto Filippo Rossi, se mi ascolta la radio, chiamami. Ma che dopo. Perché? Cosa vuole Filippo Rossi, il futurista? Non lo so, mi sta cosa chiamando vuole? Sul cellulare cosa sotto, vuole? Posso rispondere? Sì, rispondi, vabbè, rispondi, fai come ti pare. 800 24 00 24, questa è la Zanzara. E la Russa ha attaccato la signora Moratti perché nella campagna, nel rinnovo della campagna abbonamenti dell'Inter, compare anche lei proprio sotto la campagna elettorale. Dica la verità, l'ha fatta apposta, no? Lei? No. No, è l'inizio della campagna abbonamenti. C'era l'invasione del Milan perché hanno vinto questo scudetto. Lei è contenta che hanno vinto lo scudetto il Milan? No. Ah, non è contenta? Perché non se lo merita, perché è molto più forte l'Inter. Ho capito, non se lo merita, l'ha vinto però. L'ha vinto, ma se lo merita dire. Anche. No, allora, no, non se lo merita. È ma più tutti forte i milanisti l'Inter. Che la devono votare. Lei dice che non l'ha meritato, è più forte vabbè, l'Inter. Vabbè, non sono furba io. Lo so. Però, no, beh, non sono contenta come interista. Non è contenta. Ognuno... Senta, non è cioè, ma lei, uno... se dovesse scegliere, vince il Milan o vince la Roma, chi preferisce? Vincere mi dica Milano la verità, lo scudetto, mi dica la verità che le viene proprio non quella da candidata, la Milli Moratti, se dovesse scegliere scudetto, il Napoli, mi piacerebbe tanto il Napoli. Comunque l'ultimo è il Milan. L'ultimo è il Milan. Ma non mi riguarda, non mi interessa. Non le interessa. Poi se non lo vince l'Inter, così. È uguale, se non lo vince l'Inter è uguale. Però il Napoli mi piaceva. Ma sei tornato, Parenzo? Non l'ho mai risposto, sì, sono sempre stato in linea. Ah, ho capito. Ma è vero che i veri milanesi sono interisti? Come ha detto, detto suo marito, l'ha detto. Ah, una volta suo marito a Lambrogino d'Oro per la consegna. I veri milanesi sono interisti. Beh, forse Lambrogino d'Oro arrivava troppo tardi, quindi... Cioè? Aveva un po' bevuto, che ha fatto, no? No, ha voluto, secondo me, calcare la mano sull'importanza del messaggio dell'Inter, che in fondo non era stato raccolto da tutti quei mesi di successo. Per cui non è vero che i veri milanesi sono interisti, no? Gli interisti sono sicuramente veri milanesi. E i milanisti? Ma molti milanisti sono sicuramente anche loro veri milanesi. Il viceversa non vale. Il viceversa cioè? Se i veri milanesi sono interisti o milanisti o juventini, non so che cosa. Cioè vorrebbe rispondere come il marito, no, caro Parenzo, no, però... No, scusa, non c'è una assimilazione completa. No, assolutamente no. No. Ognuno è responsabile del assolutamente. Suo. Massimo sicuramente l'ha detto con tutto il trasporto e la passione con cui porta avanti il messaggio dell'Inter. Pensa che il messaggio dell'Inter sia generoso e quindi siccome i milanesi sono generosi, fa coincidere le due cose. Senta, signora Moratti, ma lasciando da parte il calcio, signora Milli Moratti, signora Milli Moratti, sì, è vero, si confonde, però insomma quando uno parla poi non si confonde più perché avete anche due voci diverse, perché cioè, oggi non è... io ho una poi, voce irriconoscibile perché ho mal non lo dica a me che mi ha avuto un calo di voce improvviso un'ora sì, fa sì, ma lei ha preso lo ho preso lo spray che mi ha dato lei, sì è vero, che sai che mi ha dato il propoli la signora Milli Moratti, sì, vede il cappuccio. Solo che mi sono ingoiato il cappuccio, cioè l'ho spremuto, ho lasciato il cappuccio, l'ho quasi ingoiato. L'acciuga, dovevi mangiare un'acciuga. Vabbè, ma migliorerò nel corso della serata. Qual è il difetto principale di sua cognata? La fragilità, secondo la me. La fragilità, cioè? E invece dà l'impressione di essere una donna molto forte, no, invece è fragile. Rigidità non è uguale a forza. Difetto acquisito è il fatto di non conoscere bene la città. Questo è il difetto acquisito. Difetto, però lasciamo perdere la città, proprio caratteriale, fragile. Fragilità. Fragile. La persona non ha... È timida, è fragile. Non ha carisma, secondo lei? Io sai che non ho mai capito che cos'è. Ma che rapporto avete? Buono, che cordiale, rapporto... come lo classifica? Buono, cordiale, no, purtroppo... vi rispettate, punto, nemmeno quello. Lei la rispetta? Certo, sì, credo che ci rispettiamo per la nostra diversità. Ma purtroppo il rapporto è inesistente da quando tutte e due facciamo troppe cose e quindi non abbiamo i tempi morti per riunirci. Ma suo marito vota per lei? Voglio vedere, mio marito è un entusiasta supporter e mio. E vota anche Pisapia sindaco? Certo, ma ha fatto una dichiarazione pazzesca allo Smeraldo l'altro giorno. Lei non c'era, abbiamo fatto ma non seguo bene tutte le cose. Devo seguire tutte le città, devo seguire. Come abbiamo faccio? Fatto una serata con Massimo tutti. Moratti vota per Pisapia. Beh, ma ha fatto... Un endorsement. Anche Paolo Mieli ha fatto un endorsement per il signor Pisapia. Non è che porta molto bene Paolo Mieli, devo dire la verità. Da questo punto di vista, beh, insomma, con Prodi andò bene in realtà, però poi andò male Prodi. Pisapia, candidato formidabile. Va bene, 800 24 00 24. Caro Parenzo, hai qualcosa da chiedere alla signora Moratti? Sì, perché quella vicenda della sindaca oggi veramente ha dell'incredibile. Cioè, lei che tira fuori questa sentenza sbagliata, peraltro, perché poi in appello è stato assolto, e non ricorda il caso Lassirio, non ricorda semplicemente che ha detto delle parole durissime sulle paragonate giudice alle biere, ma non ricorda un signore che credo si chiami Silvio Berlusconi, credo, che è capolista del PDL, che qualche problemino giudiziario ce l'ha, credo. Abbiamo già dato su questo, che bisogna aggiungere di più? No, di più, scusi, ha ragione. Credo. Ha ragione, perché quel signore si vanta appunto di credere nel fatto che una persona, giustamente, quando viene assolta, è garantito in tutta la sua integrità e quindi vale a doppia misura. Ma sì, l'abbiamo detto, insomma è un attacco sfruttando degli argomenti che di solito utilizza il centrosinistra nei confronti del centrodestra, cioè gli indagati, condannati in primo grado, eccetera eccetera. Vogliamo dire qualcosa su questa frase spiacevole di Gattuso, tornando al calcio? Senta, nei confronti, mi lasci del... dire però che questa cosa di Lessini o dentro o fuori, il sindaco ha detto questo... lui o io. Ma dice un gioco delle parti, c'è un gioco delle parti, perché la Sini è appoggiata da Berlusconi. Ho capito, continuerà a star lì, prenderà voti, è la cosa più tragica. Lei dice? Ma se e lei voti... si sederebbe insieme al consiglio comunale con la Sini, le farebbe un po' schifo? No, io non ci vorrei stare con una persona del genere, non ci vorrei stare anche con quell'altro che, intercettato con uno degli 'ndrangheta, ha detto di uno che non voleva pagare il pizzo, mi auguro che questo muoia come cane. Cioè, se Lassini entra in consiglio comunale, lei non partecipa. Adesso non mi ricordo. Però restiamo con Lassini perché la storia non conosco. Io non partecipo. Lei non partecipa. Questo glielo dichiaro comunale. Subito. Sì. Benissimo. Gattuso. Gattuso. Mi dica una cosa su Gattuso. Che peccato. Rino Gattuso. Sì, Rino Gattuso che ha detto Leonardo uomo, no, ma lui è per Parenzo, uomo di M, gridando le tifose eccetera. Mi dia un giudizio lapidario, poi abbiamo la pubblicità. No, il giudizio lapidario è che l'uomo Leonardo si deve scusare? Certo che si deve scusare. Il Milan deve fare qualcosa? Non ha detto niente fino adesso. Sbaglia il Milan. Purtroppo ha festeggiato anche massacrando la Piazza Duomo, danneggiando. È brutto. Beh, quello lo fanno tutti, i tifosi. No, mi spiace. Anche i tifosi all'Inter sono dei integra la piazza, non aveva il beneficio del caso. Comune quella volta, non aveva... Vabbè, il Milan deve intervenire su questa cosa o no? Certo che, beh, se dunque sono il silenzio uomini, è un po' vergognoso il silenzio fino è adesso. È vergognoso, sì, se sono uomini e non solo manager di un'azienda. Che devono fare? Che devono dare una multa forte? Che devono fare? Una multa forte senz'altro. Ma, e poi la squalifica ci vuole perché tu... Assolutamente. Sì. Torniamo tra poco dopo il giornale radio, 800 24 00 24. Siamo qui, caro Parenzo, 19:20, 800 24 00 24. Resiste la mia voce per il momento, resiste, grazie anche al Propoli, gentilmente donato dalla signora Milli Moratti, che non è Letizia Moratti, naturalmente. E dove siamo? Tu sei sempre là sulla terrazza dell'hotel, come si chiama? Sì. Piazza di Pietra, l'Hotel Cesare, con tanti altri simpatici turisti. Signora Moratti, lei conosce una signorina che si chiama Maristel Polanco, frequentatrice delle notti di Arcore? No, ha saputo qualcosa delle notti di Arcore, lei, del bunga bunga, queste cose qui, no? Maristel qual era? È quella, diciamo, scura di... Ma era quella come che diceva aveva... di Obama, un po' abbronzata come diceva Berlusconi di Obama. Sì, cosa aveva fatto? Di colore, niente, frequentatrice nella notte di Arcore. Prima aveva detto che era stato a letto con Berlusconi, poi invece ha negato. Insomma, una di quelle che ha partecipato alle feste di Berlusconi, no? Il fratello della signora ha avuto qualche problemino, ma so. Il fratello, il sì. Il compagno. Sì, sì, perché avevano trovato, credo, un della droga. Cose di questo tipo. Dosi da narcotrafficante. Sì. Senta, secondo lei Berlusconi che idea ha delle donne? Ma io... veramente sono sconvolta. Sconvolta addirittura? Sì, sì, sì, sono perché? Sconvolta. Credo che abbia sempre trattato male le donne. Come trattare? Le tratta benissimo, dicono. Le donne sono tutte entusiaste. È un gentiluomo, una persona che fa un sacco di regali. Neanche le sue, la sua famiglia. È addirittura? Come cosa? No. E come fa sua cognata a stare quindi con un uomo, stare ad essere alleata con un uomo? Ecco, come fa sua cognata ad essere alleata di Berlusconi? Non lo so, io penso che sia un grande sacrificio davvero. Addirittura. Sì. Cioè, perché secondo lei essere vicino a Berlusconi è una cosa molto pesante? Io non riuscirei davvero. Lei non riuscirebbe? No, assolutamente. Io mi ricordo quando tanti anni fa lui disse: nessuna mi resisterebbe. Ma come? Ma non può pensarlo? Ma è veramente un maschilismo pazzesco. Ma cosa? C'è un rumore stranissimo, Parenzo, è colpa tua. Comunque sentiamo Maristel Polanco. No. Sentiamo la signorina Polanco. Buonasera a tutti. In questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire. La Moratti accusa Pisapia, condannato per furto. La replica fu errore giudiziario, poi pienamente assolto. Questo è killeraggio mediatico. Napolitano, lotta politica non diventi guerra continua, ci vuole rispetto reciproco. L'Italia sia rispettata per civiltà e moralità. Inascoltato l'appello di Napolitano, dice Bersani, per la Moratti un boomerang. Montezemolo, violenza verbale senza precedenti. Le scuse di Confindustria per l'applauso agli imprenditori e l'amministratore della Thyssen condannato per il rogo di Torino. Cumulo di rifiuti a Napoli, situazione sempre irrisolta, esplode la rabbia dei cittadini, bloccate per protesta le strade di Fuorigrotta. Una Bibbia, un diario, un biberon, piccoli oggetti lasciati dai 500 migranti salvati a Lampedusa e al TG3 sul peschereccio incagliato tra gli scogli. A due giorni dalla morte del ciclista belga, interminabili minuti di paura oggi al Giro d'Italia per la rovinosa caduta dell'olandese Slachter. Non è grave. Bene, bene. Abbiamo gli ultimi minuti qui con la signora Milli Moratti, che è nostra ospite, 800 24 00 24. Poi prenderemo anche le vostre telefonate. Insomma, stare vicino a Berlusconi deve essere una cosa sgradevole, secondo lei, addirittura. Ma non è? Sì. Alcune donne ho sentito che dicono... è un bell'uomo, è una persona affascinante. No, non è un bell'uomo, no. Ma no, ma poi mi sembra una persona che non ascolta. Una volta mi ricordo che scambiamo due parole allo stadio proprio sul nucleare. No, alla fine di un derby vinto dall'Inter, sul nucleare. Lui cominciava a pensare al nucleare. Io sono fisico e gli dissi, ma guarda che questo è proprio un nucleare ormai scaduto, non ci pensi assolutamente, il problema delle scorie assolutamente non si è fatto un passo in avanti. E invece ho capito che non ascoltava, è un peccato, non ascolta. Voglio dire. No, non è un bell'uomo, no? No, le piace, non è il suo tipo? No, eh? Assolutamente. Non mi dica che le fa ribrezzo addirittura fisico, no? Ma dai, ma perché dovete sempre forzare le cose? No, non sto forzando. Voglio dire, a me le persone piacciono in genere tutte, soltanto che voglio dire, se uno deve dire una tipologia fisica, ecco no. No, non è quello. Beh, non è infatti quello. È esattamente il contrario del marito della signora Pili Moratti. Sì. Uno è basso, cioè no, basso, si può dire basso, non c'è querela, no? Per carità, io penso che sarà querelato. No. Uno sì. Non è molto alto, l'altro ecco, è alto. Vede che ci comincia a aver paura. Certo, io so. Senta, ma qualcuno mi ha detto che lei però, prima di conoscere suo marito e anche dopo, nei primi anni, era tifosa del Milan. Aia. Questo è, se volete, una cosa dolorosa. Beh, come dolorosa? No, nel senso che... È vera allora? È vera. Lei, fino vera. A quando è stata tifosa del Milan? Le posso dire una cosa terribile. Fino a quando ho capito che veniva completamente snaturato proprio dall'arrivo di Berlusconi, che lo usava come un mezzo per il suo prodotto, che era appunto quello, cioè, che lei era milanista fino a quando Berlusconi è stato presidente del Milan. Io non capisco perché non devo dirlo. No, ma chi ne ha detto che non lo deve dire? Anzi, lo devi dire. Infatti ce l'aveva con me quando c'era le partite, diceva tu però sei della squadra del diavolo, perché sa che c'è come simbolo il diavolo, quindi non ho vergogna a dirlo. Ce l'hai fino all'86, però era tifoso del Milan. Io trovo che sia una brutta cosa dire sempre questa solita litania, si cambia la moglie, il marito, il partito e cose, e non si cambia squadra. La squadra è così un tutt'uno con la vita che se a un certo punto vedi che sono traditi proprio i principi della vita, bene. L'Inter invece è esattamente tutto ciò che io penso che una squadra di calcio debba essere. Cioè l'Inter essere. È più di sinistra? No, non c'entra la sinistra o la destra, no. L'Inter è una squadra sicuramente molto competitiva sul piano agonistico, perché cinque titoli così non li ha mai portati a casa nessuno. Ma è anche una squadra completa umanamente, che cerca Ma non è che sono disumani quegli altri, no, Milan è disumano, no? Io devo dire che è più umano l'Inter, nel senso, cioè, che l'Inter è più umana rispetto al Milan. Che vuol dire? Cosa vuol dire no, più umana? No, vuol dire che è chiaro che il linguaggio del calcio è un linguaggio meraviglioso che ti fa passare con facilità le diversità, pensi al nostro intercampus in giro per il mondo, riesci a agganciare tipologie incredibili di ragazzi difficili. Cioè sono molto più, l'Inter è molto più, che ne so, più umana rispetto al Milan. Mette il linguaggio del calcio al servizio proprio della convivenza. Allora, per me è una cosa... Beh, non l'ha ancora fatto nel modo con cui l'ha fatto di questo, l'Inter. Lei fino all'86 era tifoso del Milan. Ma dopo, per Berlusconi, no. Quando è arrivato Berlusconi sono diventata dell'Inter. No, non mi ricordo la quello data. L'ha detto lei prima. Ricordo che a un certo punto mi ha disgustato l'uso proprio improprio che veniva fatto di questa squadra. Io e suo marito si lamentava del fatto che lei era del Milan. Ma guardi che noi non è che dobbiamo essere proprio monolitici. Voglio dire, se no saremmo stati tanti anni a divertirci a stare insieme, no, ci divertiamo proprio perché discutiamo. Senta, solo che adesso lui è della mia. Moratti è dell'Inter, secondo dell'Inter. Lei, con questa è dell'Inter, cifra che lei descrive, è dell'Inter, o no, è un po' una falsa interista? Ma io non l'ho mai vista una partita, quindi non posso sapere come, se lei veda le partite e come le veda, quindi non lo so. E c'è una cosa che voglio chiederle: il candidato sindaco del Partito Democratico e non solo del Partito Democratico a Bologna, qui ai nostri microfoni l'altro giorno ha detto una cosa che sta facendo molto discutere a Bologna, lui si chiama Merola, e ha detto le canne fanno molto meno male delle sigarette. Lei si è mai fatta le canne quando era più giovane o anche adesso se le fa? No, sai perché? Mai fatte voglio... prima? No, ma non è che lo dico con orgoglio, semplicemente a me piace talmente esserci che... Sai, essere consapevole, essere lucida? Sì, esserci proprio. Un po' come me. Che questo veramente mi farebbe perdere un pezzo. Penso che la pericolosità si riferisca al fatto che proprio la carta, quello che brucia, eccetera, è più tossico quello delle sigarette che non quello. Beh, adesso non so se si riferisce a quello. La foglia, credo, che io non lo so, non sono esperta. E dunque non può rispondere, più pericoloso l'uno o più pericoloso l'altro. No. E forse non posso rispondere, no, perché non si devono dire sciocchezze. Voglio dire, se non lo so, come faccio a dire? No, certo. Se lei mi fa una domanda. Quanto spende per la sua campagna elettorale? Quanto spendo? Quanto spenderò? Ma io spendo più che altro, e sono debiti che adesso pagherò man mano, nel impiegare molti ragazzi, ad esempio sul campo, molti ragazzi di Don Gino. Però in tutto, soldi. In progetti. Soldi. Quanto spenderò? spero di non andare oltre 300.000, credo. Qualcosa e ha dato dei soldi alla campagna di Pisapia? No, per adesso no, non per so adesso. Se cioè è sbagliato spendere tutti i soldi che spende la Moratti, secondo lei? Sicuramente. No? Moralmente sbagliato, detto da lei, famiglia Moratti, no, molti soldi. Ma senta, non è fatto di moralmente, c'è un'utilità e un'inutilità. Io penso che i soldi spesi sterilmente per una campagna elettorale, vabbè, quindi non spesi lei, in progetti. No, sterilmente perché voglio dire, se li spendi in comunicazione, in affissioni, in sì. spot, poi finita la campagna non sono ma un progetto. Ma in generale è sbagliato spendere è tutti quei soldi? Eticamente sbagliato spendere tutti quei soldi? È inutile! L'etica che cos'è? Non lo so, forse. Cioè si potrebbero spendere in un altro modo? Ma certo, io li spendo in progetti. Benissimo. Io li spendo. Ho comprato un vabbè. Sacco di piante, ad esempio, che vado a piantare. Non è la campagna elettorale. Ah sì, lei dice no. per in giro per la città. Dice. In vabbè, questo quello è un modo, momento esagero nel mio solito modo. È un modo di fare campagna elettorale. Ma come scelta? Io faccio la Mille Moratti. Anziché fare i santini, faccio delle piante. Abbiamo regalato infatti i semi. Ma la cifra così alta giorno. È sbagliata? Assolutamente. E la cifra quale? Alta? Quella della Moratti. Ma io a parte che non è pubblica, però si dice, oltre certo 10 milioni di euro. Ma certo che è sbagliato. Devo chiudere, grazie di esserci venuto a trovare. Grazie a Mini Moratti. Pubblicità, torniamo subito. Se la voce regge, ma reggerà. 800 24 00 24. Grazie al Propoli di Mini Moratti. Grazie. Fantastico. Siamo qui 19:38 800 24 00 24. Parenzo, ci sei? Ci sono, vedo che la tua voce resiste ancora, forza. Resiste anche perché da domani siamo a Torino al Salone Libro e bisogna essere forti. Venite a trovarci in massa a Torino col pubblico. Salone del Libro, non vi dico lo stand perché non me lo ricordo. 800 24 00 24. Questa è la Zanzara. Trasmissione inconfondibile, o sbaglio? Per forza, no. La trasmissione che manda esatto, soprattutto per le cose che escono fuori. Avete sentito questa confessione da parte della signora Moratti, Milly Moratti, la quale ha detto: fino a quando Berlusconi non ha avuto in pugno il Milan ero tifosa del Milan. Poi no, ottima, hai tirato fuori delle cose nuove anche che non si sapevano. Beh, vero? Sono nuove, non lo so, però nuove, è interessante questo intimo della signora Moratti, Milly Bossi Moratti, questo è il nome completo. Va bene, Rinaldo da Milano, buonasera. Chi è Rinaldo? Signor Rinaldo, buonasera, è un ascoltatore, il signor Rinaldo da Milano. Quale onore, sono il primo a intervenire, mi sembra. Sì, dica. L'ho chiamato ieri sera, tanto per essere originale, volevo intervenire su Berlusconi, la giustizia e gli sì. comunisti. Ma cosa mi vuole dire? Allora, volevo dire questo. Sono un berlusconiano per costrizione, non per convinzione. E volevo scherzare. Che vuol dire avanti. Berlusconiano per costrizione? Perché l'Italia è divisa per clan, allora sì. Coppi, Bartali, Loren, Lollobrigida, Iter. Lei dice non voterebbe mai a sinistra, e pur di non votare a sinistra, si tura il naso e vota Berlusconi, ho capito. Ecco, questo giusto per dare il tono al mio intervento. Però di tutti i peccati che Berlusconi commette, di nuovo non ce n'è nessuno in politica. Cioè, voglio dire... Cioè, in che senso, scusi? Allora, parliamo di Berlusconi, rispetto ad aver raccomandato, fatto eleggere la Minetti, al di là che avesse le capacità o non avesse le capacità. Mi dispiace che non c'è l'onorevole Fassino, perché volevo chiedergli, se non ricordo male, qualcuno mi corregga, il primo ad avere moglie ed amante in Parlamento è stato Palmiro Togliatti nel 1948. Quindi già la Repubblica è partita male. Sciocchezza colossale, poco male. Nil De Jotti alla Camera e la moglie, diciamo... Però signor Rinaldo sta dicendo una che... In politica, anche la sinistra ogni tanto ha candidato le donne perché mogli di... Aspetti, Cruciani, con permesso, perché sì. sono anche un po' emozionato. Poi, riguardo all'induzione alla prostituzione... Vabbè, quello è un altro discorso, adesso che no, vuole ma fare, aspetta, che vuole fare? Il PM, bello, cosa vuole fare? Il giudice? Perché i compagni, i pari età, io non so se l'ha fatto personalmente, ma la generazione dei Fassino, dei D'Alema, dei Bersani... Quando avevano 20-25 anni, e più di uno, perché io conosco, io ho 53 anni, quindi sono entrato li ho visti all'opera, li ho studiati. Vabbè, allora? Partivano, andavano al congresso del Partito Comunista Sovietico dei Lavoratori. Però Rinaldo, basta con queste storie, ma chi se ne frega? Aspetta, con i jeans, con le valigie piene di jeans e di collant, e allora? Per fare il sesso gratuitamente. Quindi questa qui è verità. Che si deve fare il sesso gratuitamente? Ah, lei non è... Quanti anni ha, scusi, se non sono indiscreto? No, ma ho capito, che c'entra fare il sesso gratuitamente? Guardi che chieda a qualsiasi comunista o ex comunista, negli anni 70... Allora? Voglio dire... Ma perché quindi dovrebbe interessarci questo? Me lo spieghi? No, non è un peccato nuovo, voglio dire, che qualcuno con denaro o sfruttando lo stato di indigenza delle povere compagne russe... Bastava vabbè portarla, ma non per questo, diciamo, ho delle prove dirette, non perché io l'abbia vabbè fatto. Rinaldo, ho capito, insomma lei dice anche gli uomini di centrosinistra di adesso, poi, che prima erano comunisti, andavano, non so chi, poi andavano in Unione Sovietica a fare sesso. No, adesso non chiude nulla perché chiudo io, la ringrazio. Paola da Roma. Paola da Roma, buonasera. Buonasera signora Paola. Vi sento sempre, sì. Mi piace molto la vostra trasmissione. Mi dispiace per la mia voce questa sera, ma domani recupererò. No, ma non ce l'ha così brutta. Beh, insomma. Senta, Cruciani, volevo dire questo. Innanzitutto complimentarmi per quell'intervista con la signora Moratti. Vabbè, andiamo avanti. Ecco, e poi volevo dire che l'affermazione di Berlusconi fatta appunto sulla polizia e la bruttezza degli uomini di sinistra, sì, praticamente mi ha fatto, sì, pensare subito che forse non avevo notato bene quanto erano belli Cecchito, La Russa. Ma lei dice si possono fare battute, sì, sui belli o sui brutti, perché anche nel centrodestra ci sono delle belle bruttezze. Infatti, ma la bellezza conta, sì. Ma sono stupidaggio, possiamo dire che questa cosa delle... Andrebbero annusati un attimo. Però Paolo, su questa cosa qui siamo perfettamente d'accordo. Ma siamo d'accordo su un piano, su un punto. Cioè, perché utilizzare le categorie di bella, brutta in politica? A me non mi interessa una persona bella, una persona brutta. Capisco che la bellezza conta, perché conta sicuramente, ed è normale che conti quando si parla di competizione politica. Però non è che quando una persona parla e parla di politica, fa proposte, eccetera, non è che si guarda bella, brutta, no? Certo. Vabbè, comunque. Cioè, ma non c'è dubbio. Sfondiamo una porta aperta. Inutile stare su questo argomento. Ma poi è Berlusconi, cioè, il solito repertorio di Berlusconi. Valutiamolo per quello che dice e per quello che non fa. Per quello che dice in politica e per quello che non fa. O quello che fa, o quello che non è che c'è solo quello che non fa, non è che adesso non esageriamo. Quello che fa, ha fatto alcune cose buone, la riforma della scuola, dell'università, la riforma della pubblica amministrazione con il nostro amico Renatuccio Brunetta, anche un po' la riforma delle pensioni. No, quella non l'ha fatta manco per nulla, ma non importa. Beh, l'aveva fatta, poi è stata cancellata. Comunque, sì, Tini e Amato l'hanno fatta quella lì, comunque poco male. Andrea da Pesaro, buonasera. Dottor Cruciani, buonasera. Dica. Volevo intervenire rispetto alle parole della Moratti, candidata a sindaco, non della Milli. Sì. Poi non capisco perché la Milli non si fa chiamare Milli Bossi Moratti? Cioè, insomma, questo nome lo usa per fare marketing oppure perché... Strano che... Beh, ma è normale, ma mi scusi un attimo. Lei che cosa rimprovera la signora Moratti Milli? Quella di... è anche... No, Moratti Letizia o Milli? Non ho capito. No. La Milli non capisco perché non si fa chiamare Milli Bossi in Moratti. Cioè, mi sa che usa il nome Moratti un po' come specchietto per l'allodo e non lo so. Però, ecco, siccome lei ha un suo cognome, la Milli, che usi il suo cognome. Ma ognuno utilizza il nome che vuole, marito, moglie, eccetera. Qual è il punto? Qual è il problema? Non ho capito. Cioè, lei sta dicendo si approfitta del cognome più famoso. Beh, allora qual è il punto? Che cosa c'è di male? Cosa c'è di strano? Non ho capito bene. Breaking news. Una notizia che arriva dalla Spagna: almeno 4 persone, 5 secondo altre fonti, sono morte oggi nella regione della Murcia a seguito di 2 scosse di terremoto. Questo è quello che riportano i media spagnoli. Maggiori aggiornamenti naturalmente nelle prossime edizioni del giornale radio, oppure quando ne arriveranno. Torniamo in onda 800 24 00 24. Andiamo a Milano. Agostino, Andrea, aveva concluso lei? Ma volevo soltanto dire una cosa semplice semplice. La Moratti invece oggi ha detto quella cosa di Pisapia. Nel la signora Brichetto, la chiami Brichetto, la signora Letizia Brichetto. Brichetto si chiama. No, ma Brichetto... adesso non dire stupidaggini. Abbiamo parlato con la signora Milly Moratti, che si chiama Bossi, moglie di Massimo Moratti fino a un quarto d'ora fa. Non è che le abbiamo detto si tolga il nome Moratti e utilizzi il nome Bossi. È lo stesso. Rispondo al radioascoltatore, dico se vale il suo criterio e secondo me non vale, la chiami, io uso la sua logica, secondo me hai ragione tu, hai evidentemente ragione tu, ognuno usa il cognome che ha, è sposata i Moratti, usa. Allora la signora, da oggi la signora è la signora Letizia Brichetto, Brichetto, ha capito? Brichetto. Andrea, se lei vuole che le signore Moratti non utilizzino il nome dei rispettivi mariti, allora le chiami col suo nome, col loro cognome. Esatto. Vabbè, allora, no. Insomma, che voleva dire lei, Andrea? Andiamo alla conclusione. Andiamo alla conclusione. Io volevo fare riferimento al dibattito che ha avuto con Pisapia, la candidata sindaco di Milano, dandogli quell'accusa che è stato condannato per non so quale reato. Allora? Io stavo facendo questa riflessione, che oggi come oggi il dibattito politico, anche ricollegandomi a quello che si diceva ieri in trasmissione, ha assunto dei toni un po' aspri in generale, perché forse dobbiamo accorgerci tutti che i candidati hanno, vuoi per la legge elettorale, vuoi per la legge anche quelle delle amministrative, hanno assunto un carattere molto personalistico queste elezioni, nel senso che nella Prima Repubblica sapevamo che noi votavamo un partito. Però Andrea, adesso non ci venga a fare la cosa sulla politica personalistica, è normale che quando si candidano i sindaci che cosa deve essere? Cioè si parla delle persone, no? Di che parliamo? Su Andrea, diciamo delle cose un po' più... No. In questo senso io non mi scandalizzo ricontinua. Se i toni nel dibattito politico siano così accesi. Va bene. Va bene, grazie. Andiamo a Savona. Roberto, buonasera. Sì, buonasera signor Cruciani. Dica. A lei e a quel signore, l'amico Fritz, col quale si parla. Sì, allora, Fritz. Io volevo dire questo, è che sentivo le due, quella signora Billy Moratti, che tra cognate... che si parlano così è una cosa un po' disdicevole, perché poi dopo probabilmente quando si trovano rientrano ancora nei canoni della parentela e tutto è normale. Ma non penso, da quello che ho sentito, da quello che si sa sui rapporti tra le due signore. Comunque insomma, non ce ne frega niente alla fine dei rapporti, dei rapporti personali, può essere curioso naturalmente, da quello che abbiamo capito non mi pare che ci sia un rapporto molto stretto. Vuole aggiungere qualcosa? No, ecco, io volevo aggiungere questo, siccome il Sur Moratti, che abita nel centro di Milano, una è di sinistra e l'altra tiene a Berlusconi, il signor Moratti detiene una delle più grosse raffinerie in Europa, è stato detto dalla vostra radio, ma questo... E come mai fa a essere lì di sinistra che fa parecchi soldini? Ma questa raffineria, per caso, non è che concia un po', oppure inquina, non è che potete indagare se inquina la nostra Sardegna? No, guardi, di nuovo questa storia dei petrolieri, la sinistra, eccetera, eccetera. Non mi va nemmeno di parlarne. 1950 800 24 00 24. Secondo me non c'è nessun tipo di contraddizione. È evidente che poi bisogna vedere che tipo di battaglie si fanno, se ci sono delle contraddizioni in queste battaglie. La battaglia ecologista è compatibile col fatto che il marito della signora Moratti faccia il lavoro che fa. Non è che le cose siano necessariamente in contraddizione. Certo. Allora, sai chi c'è, Parenzo? Chi c'è? Un ospite da Roma che fra pochissimo ti presento, fra pochissimo ti presento. Anzi no, te lo presento subito. Luca Belotti, buonasera. Buonasera. Come sta? A voi, come sta? Oggi mi trovo bene, signor Belotti, che ho la voce un po' bassa, Sì, ma pronuncialo bene, due L e due T, mi sembra che... Bellotti, Bellotti, Bellotti, Bellotti, è bene. Il sosia di Luciano Spalletti, nuovo sottosegretario al lavoro, al welfare. Come lei dice, lavoro o welfare? Dobbiamo lavorare tutti. Ho capito che vuol dire. Anche lei deve... sicuro. Anche questo è sicuro. Anche lei deve anche lavorare. Anche noi politici dobbiamo lavorare. Senta, lo sa che io sono ogni volta rimango scioccato dalla sua somiglianza con Luciano Spalletti, ex allenatore della Roma. È una cosa impressionante. Facciamo un duetto. Ma infatti lo prepareremo. Prepareremo un duetto, ma lui lo sa? No, perché chiaramente è più importante lui. Ci siamo incontrati in qualche partita di beneficenza. Un giornale locale ha fatto anche il apostolo indovinello, chi è l'originale, insomma. Un giornale locale dice con di dove? Con il mezzo De Sisti, che è il nazionale, che è il nazionale parlamentare di calcio. De Sisti è l'allenatore della nazionale parlamentare di calcio, di cui lei è centravanti. Picchio De Sisti. Lei è tifoso dell'Inter, Bellotti? Io sono interista da sempre. Ma Spalletti che ha detto, quando vi siete incontrati, qualcuno vi confondeva, no? Adesso non esageriamo. Solamente salutati, presentati, basta. Penso che sia oggi il migliore allenatore italiano. Comunque Bellotti è impressionante, è veramente impressionante, no Parenzo? Tu che sei un esperto di calcio. Mi metterò a fare un libro di aneddoti. Essere socio di Spalletti, ecco. A Roma diventa veramente divertentissimo, a volte anche veramente comico, quindi situazioni molto divertenti. Per esempio, me ne racconti una. Ma insomma, gente che viene lì magari in fiammingo a chiedersi l'autografo e non sai come toglierteli di dosso, insomma, in certo punto ti guardi attorno e dici tanto non mi vede nessuno, è uno scarabocchio per farlo felice, insomma, ecco. Beh, addirittura firma autografi per conto di Spalletti, il sottosegretario. Bellissima. Una cosa pazzesca. Questa è bellissima. Questa è molto bella, sì, è molto bella. Il sottosegretario, il neo sottosegretario al welfare, Luca Bellotti, ha firmato falsi autografi per togliersi di torno. Ma non poteva dire semplicemente non sono io, sono un'altra persona, no? Con amici era una situazione divertente. Senta Bellotti, ma nei giorni scorsi, per le polemiche che ci sono state dopo le nomine dei nuovi sottosegretari, ho letto una cosa in cui lei dice, beh, insomma, basta, mi potrei anche dimettere. Non è che si dimette, no? Ma guardi, credo di essere stato uno dei forse rari, credo non l'unico, da assessore alla Regione del Veneto al bilancio, che per affrontare la campagna elettorale delle politiche, onde evitare polemiche, utilizzo di mezzi della regione e quindi in qualche maniera vantaggi eccetera, ho dato le dimissioni e ho fatto la campagna elettorale. Beh, ma da sottosegretario adesso si vuole dimettere, no? Ma sottosegretario, se continuano queste polemiche, come se la funzione nostra fosse in qualche maniera riconducibile a una sorta di risarcimento eccetera, perché io penso di non essere risarcibile, nel senso che sono disposto e disponibile da subito anche a fare, però lei per questo... a ritornarmene in panchina, insomma, non c'è problema. Quindi, Okay, allora... siccome sembra che il problema dell'Italia sia questa fissazione da parte di tutti a ricoprire incarichi, a questa fame da incarichi, e non ci sia nient'altro, insomma, no, non viene valutato un minimo di curriculum, un minimo di percorso, nessuno dice, ecco, però, che ho fatto l'assessore riconfermato, due legislature in regione, terza legislatura al Parlamento. Però lei quando le hanno chiesto del welfare nazionale. Però no. Mi scusi, lei è un imprenditore agricolo, no? Quando le hanno chiesto del welfare. Io non sono un imprenditore agricolo, vengo spesso confuso non sono imprenditore agricolo. L'imprenditore agricolo è uno che fa l'agricoltore. Io faccio l'agricoltore per hobby, quindi non sono imprenditore. Vabbè, agricolo. In ogni caso, quando le hanno chiesto del welfare, lei ha detto, beh, insomma, non è che sia molto esperto. No, guardi, questa è stata un'interpretazione maliziosa, perché ci tengo magari a ribadirlo da Radio 24, che so che comunque è ascoltata da molti. Io ho detto semplicemente quello che penso, credo, direbbe una persona normale, dotata di buon senso, no? Ero ritenuto dalla maggior parte competente sui problemi dell'agricoltura, affrontiamo il welfare con affrontiamo questo. Cioè lei deve imparare? Deve imparare il mestiere? Ma guardi, credo che in politica non sia nel primo né nell'ultimo caso. Anzi, devo imparare il mestiere. Benissimo. No, un attimo solo. Lei. No, è lei che mi dice, non è il primo né nell'ultimo caso. Un attimo solo la pubblicità, torno da lei, bell'ora. Siamo qui sempre in diretta alla Zanzara, caro Parenzo, sono le 20 in punto. Qui peggioriamo con la voce, eh? No, coraggio, forza con le Sostienimi. Acciughe, forza con le acciughe. No, le acciughe stasera. Volevo chiedere una cosetta al signor Belotti, se Bellotti, con due L, Bellotti. Con noi, Bellotti, sì. Perché lui pochi mesi fa ebbe a dire, quando ancora era nel SLI, Fini sei il nostro Mosè. Ecco, ma se Fini era Mosè, Berlusconi che cos'è oggi? Guarda, sapevo che andavate a... se lo doveva aspettare, no? A Zanzara questa qua, mica latte e miele, eh? Ma io ho sempre avuto, e non rinnego, una grandissima ammirazione per Fini, perché Fini ho sempre considerato un grande politico. Negli ultimi 5-6 mesi, forse nell'ultimo anno, qualche problema me lo sono posto. Vabbè, d'accordo, poi Fini, dopo è stata una riflessione che via si è maturata, perché fino a Mirabello che... No, ma rimaniamo al concetto, non mi faccio la storia di Fortuna e Libertà. Ma rimaniamo al concetto, io dico quello che voglio dire, non quello che vuoi, oppure dimmi tu cosa devo dire, se vuoi. No. Per rimanere nella sua metafora, no? Che lei disse, sei il nostro Mosè, oggi Berlusconi, che cos'è? Beh, insomma, fai un po' il paragone, no? Sul Monte Sia, che andò a fare, E dunque, Berlusconi? Nella Bibbia è innominabile. Addirittura Berlusconi è il signore? Nella Bibbia è innominabile, dai. Vabbè, Parenzo, traduci tu, no? Eh no, mi pare di aver capito che se Fini è Mosè, Berlusconi è il signore, quello che dà le tavole della legge. Mi pare di aver capito così. O no? Vabbè, cioè queste interpretazioni no, seguono una vostra logica. Il cavaliere, no, il dottore e il signore. No, vabbè, vuol dire, se uno fuori dall'ironia diventa un po' preoccupante, però. No, ma non è questione, cioè lei era... un po' sopra. No, ma lei era un comizio, per carità, era un momento che non era, però si rivolse in questo modo nei confronti di Gianfranco Fini, sì, dicendo portaci, no? in modo così un po' folcloristico, anche nei confronti di qualche mio ex collega, insomma, credo che bastava che qualcuno di voi venisse anche ai nostri dibattiti all'interno di Alleanza Nazionale, insomma, qualche parolina volava, insomma, poi dopo tutti uniti, tutti compatti, oppure il ripristino di quelle che sono i valori umani, vale a dire il rispetto, credo che ci sia sempre, insomma, ecco. Senta, lei disse anche pochi giorni prima di tornare da Futura Libertà al PDL, per carità, mi dovessero crescere i capelli. Sono felice che voi mandiate in onda queste cose che riguardano un passato recente. Mi meraviglio però che non mandiate magari qualche dichiarazione magari di qualche big nazionale quando diceva con Bossi manco un caffè, poi ma lo mandiamo anche quello governo, oppure dichiarazioni dello stesso Bossi, oppure insomma no, ce ne sono nel repertorio dei politici italiani. Aiosa, andiamo nel campo sportivo, stessa identica cosa. Ma guardi che noi mandiamo tutto, Bellotti, mandiamo, noi mandiamo tutto, non è che non ci facciamo mancare niente. Mi difendo così, visto che non c'è la possibilità di difendersi dal poter cambiare idea, insomma, verificare che un percorso che io pensavo orientato all'interno comunque di un programma di centrodestra chiaro e preciso, poi alcuni vagoni si sono orientati verso sinistra e il treno aveva una direzione non terza gamba del PDL ma terzo polo. Secondo lei Fini è pronto ad un'alleanza anche con il Partito Democratico? Cambiato biglietto per il quale ero salito, insomma, ecco. E secondo lei Fini è pronto ad un accordo anche col Partito Democratico? Non so per cosa. Bisogna chiederglielo a Fini. Vabbè, lei lo conosce, no? Mi sembra, no, ma mi sembra Mosè che Fini, insomma, Mosè la questione Fini. Delle elezioni comunali di Milano siano abbastanza eloquenti, no? In caso di ballottaggio qualcuno lì aveva dichiarato disponibili all'accordo con l'eventuale coalizione di centrodestra. Qualcun sì, qui, altro Urso, si è Urso, Urso a questi no? microfoni ha detto, qui alla Zanzara ha detto, voterei la Moratti turandomi il naso. Ma c'erano, ci sono persone che non sono d'accordo. Senta, come definisce lei Bocchino? Come? In una sola parola, la sua definizione di Bocchino. No, farà la sua strada, avrà quello che si merita, come tutti nella vita. Beh, avrà quello che si merita, che vuol dire? Ma ognuno, chi semina poi raccoglie, no? Chi semina poi raccoglie, insomma, no? E cosa sta seminando? Cosa sta seminando? Ma secondo me la questione di futuro e libertà, che aveva delle ragioni iniziali, è andata scemando sicuramente perché qualcuno ha innestato qualche rivendicazione personale piuttosto che un grande disegno politico che poteva servire al paese e addirittura anche a... Ma è morta futuro e libertà? Non lo auguro mai a nessuno, però non credo che abbia un futuro luminoso in politica. Ecco, ma torniamo alla questione del fatto che lei ha detto, anche se poi ci ha spiegato qui, che in realtà non so cos'è il welfare. Ma chi l'ha detto? Ma scusa. Ho letto agenzie. Ho letto un virgolettato. Un sonnambulo, no, che faccio di... veramente non sono io che devo dare le dimissioni, è Berlusconi che deve togliermi immediatamente, cioè non so cos'è il welfare, ma insomma dai. Adesso voglio dire, se non altro per la disperazione, cioè, di non è esperto, politica. Non bisogna essere esperti di welfare, ma per fare sotto... Ma guardi, ma manco il ministro che c'era prima con Prodi, no? Ma Bassolino era esperto del Ministero del Lavoro. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire avere una preparazione. Beh, il sottosegretario ha un ruolo un po' diverso, eh? Il sottosegretario ha un ruolo un po' diverso. Di solito ma guardi, se la consola è anche per tranquillizzare no, gli elettori. No, ma guardi, a me non me ne frega niente. È anche per tranquillizzare gli elettori. Io ho fatto l'assessore al bilancio della Regione Veneto, in uno dei periodi più splendenti, dove la Regione addirittura aveva un rating superiore allo stato di appartenenza, cosa unica, sì. più unica che rara. Quindi, tranquilli. Però lei prima mi ha detto riconosciuto come un uomo... Ma lei ha detto devo studiare bene la materia, l'ha detto lei poco fa. Non è un delitto, ma insomma da qua a utilizzare questo in chiave negativa, se permettete, tento di difendermi. No, poi ognuno è libero di pensarla come... Cioè lei dice, io vuole, da sottosegretario no? al welfare devo ancora studiare bene la materia, ma ho esperienza di governo, giusto? Sicuramente gli archivisti non sono stati abbastanza abili, sì. Anche alcuni ragionamenti che io feci sempre in Future Libertà, ma anche nel mio precedente, quando prima nel PDL, è un po' da sempre, sì. Ho sempre insistito su due fondamentali temi per la coesione sociale, necessari e indispensabili proprio in questi momenti difficili. Uno è la questione giovanile e l'altra è la questione del lavoro. Ma questi sono un po' slogan, senza lavoro, però, non c'è serenità sociale, senza lavoro non c'è stabilità. Ma questi sono un po' slogan. Lo posso dire pure io, Bellotti. Vabbè, ma ok, d'accordo. Allora cosa vogliamo? Entriamo in quelle che possono essere tutte le definizioni legislative, quello che abbiamo fatto per il ripristino della cassa integrazione. No, per carità. Per i disoccupati ne parleremo. No, ma è evidente che Bellotti la prossima volta magari. Senta una cosa. È chiaro che tutti i politici dicono vedere se la preparazione è ritenuta sufficiente. No, per carità. No, nel senso che lei stesso che dice se non mi sbaglio. Senta, guardi, dite quello che volete. Per me è stata assolutamente detta o riportata in maniera maliziosa. In maniera maliziosa. Gente che mi ascolta può farsi un'idea, no? Senta, quando a proposito degli attacchi che lei fece in pubblico ad alcuni dirigenti del PDL, dove poi è tornato nel periodo in cui ha aderito a Futura Libertà, lei ha detto facevo solo del cabaret, erano tutte stupidate. No, anche lì. Guardi, sbagliato pure quello. Un giornalista al quale non avrò più l'onore di rilasciare interviste. Antonello Caporale. Ecco, il quale voleva intervistarmi io per la sua non disponibilità fisica di incontrarmi, l'abbiamo fatta al telefono. Avrei voluto veramente registrarla quell'intervista. Era completamente diversa. Ha dato un senso maligno a quanto io ho detto su quell'argomento. Io gli ho detto, così come ognuno di noi quando fa un comizio tiene un profilo, il mio ho voluto essere non un profilo accusatorio, non un profilo cattivo, dico, se per certi aspetti ho voluto anche renderlo leggermente divertente. No. Mm. E allora questo è riportato, Lotti ha dichiarato, io volevo fare cabaret. Insomma. Cosa che lei non ha mai detto? No, assolutamente no. Mm. Assolutamente no. Bene, allora, quindi rivendica il paragone di Fini Mosè. Benissimo, certo. Giusto, no, che c'entra? Tutti. Fini Mosè, quello l'abbiamo ascoltato con le nostre orecchie. Quello, scusa, quello l'ho detto. Ecco, ma non si pente no. Un po' di queste di aver detto Fini è come Mosè? Cioè, non è un po' pentito? Allora, guarda, io dovrei pentirmi di me stesso. Quando ho detto queste cose me l'assumo. Era convinto di era. Ero convinto, in quel momento ero convinto ancora che durante il giorno dopo di questa assemblea formativa del FLI ci fosse questo scatto di Fini che ci abbiamo provato in tutti i modi anche come classe dirigente per fargli cambiare idea che poi dopo non ma non lei è ancora convinto poi, che Berlusconi è una vergogna con lui sono due, tutti due, no questo non l'ho mai detto tranquilli questo non l'ho mai detto questo non l'ho mai detto qualcuno l'ha riportato male vergogna vergogna con lui sono tutti dei servi zitti questo l'ha detto no cos'è a parte che sento anche leggermente con lui sono tutti dei servi zitti non l'ha mai detto? Servi zitti, no, non mi appartiene. Il premier utilizza i suoi mezzi mediatici per intimorire, sono preoccupato di quello che sta facendo il presidente Fini, questo l'ha detto? Ma mi dica chi l'ha scritto, perché vado a vedermelo chi il l'ha Fatto scritto. Quotidiano Il Fatto Quotidiano il 6 maggio il giornalista, il 6 maggio. Il giornalista no, perché no, perché è una scheda è una scheda queste questioni appunto, no, senza nome né cognome no, vabbè, c'è un articolo io, che poi no, lei guardi, io ho un vocabolario mio che comunque è molto rispettoso delle diversità Bellotti, scusi, se all'epoca non ha sentito non le dico in maniera così brutale ma comunque lei può andare a controllare perché... il 6 maggio all'epoca non l'ha letto smentire il giorno dopo poteva smentire ma se dice di non averle dette non ho mai smentito nulla perché se devo correre dietro a voi giornalisti quello che dite poi quello che riportate a volte anche quello che scrivete dovendo smentire farei un doppio lavoro quindi non ho mai smentito nessuno da quando faccio politica non ho mai smentito nessuno da quando faccio politica non ho mai denunciato nessuno e fortunatamente non ho mai ricevuto denunce da nessuno. Bueno. Parenzo, pubblicità, ottimo, torniamo subito. Che c'è? Pubblicità, torniamo subito. Eccoci, la voce eccoci sta scemando, qua. Caro Parenzo. No, ma arrivano resisto. Siamo in collegamento con Luca Bellotti, sottosegretario al welfare, il sosia di Luciano Spalletti, molto simpatico. 20:17, il traffico, poi torno con l'ultima raffica di domande, poi lo lasciamo libero. Qui alla Zanzara, non ve ne andate. 800-24-00-24. Resisto, io resisto con la voce, resistete anche voi. Parenzo, dammi una mano, su. Caro Bellotti, subito una domandina pepata, ma perché ma lei è diventato pensavo una dolce, data l'ora. No, perché è diventato sottosegretario? Perché uno dice, lei è stato eletto col PDL, poi è passato col FLI, poi è tornato col PDL, qualcuno potrebbe dire l'hanno premiato, potrebbe dire ma qualche guarda, malizioso, vergognoso, potrebbe dire l'hanno premiata. Ma ascolta, ma non ti va di fare uno sforzo dicendo ma può darsi che uno dopo tre legislature, due in regione, sì, tutto sì, bene, però è curioso, no? Però è curioso. All'inizio della legislatura si faceva il suo nome per eccetera eccetera eccetera. Però è curioso che proprio adesso, bello. È curioso. O no? Vabbè. La curiosità. Scusi, però secondo me non ci sarebbe niente di male a dire io sono ero in Futuro Libertà. Poi ci ho ripensato per i motivi che abbiamo spiegato. Mi hanno premiato. Cos'è un'istigazione alle bugie la vostra, scusa, Anche. Cioè, senti una cosa, un'istigazione alle bugie. Senti, io ho visto il Berlusca, l'ho visto dopo che ho aderito, dopo, e non è che mi ma ha detto chiama Berlusca, a fare là. Abbiamo parlato, no, ma ho capito, abbiamo ma... parlato in lungo e in largo, credo di aver parlato anche con voi in trasmissione, di sì, aver sì, sì, sì. No, sulla questione. Scusi, perché non dice esplicitamente che è un premio al fatto che lei è tornato in Futuro Libertà, ha conosciuto meglio Berlusconi? Non lo so, cosa è successo? Normale, questo cos'è accaduto? Sono cose normali, cioè non sono perché cose... Perché lei, Rosso, anche Rosso, ad esempio, Rosso aveva fatto il sottosegretario delle passate legislature con Berlusconi, improvvisamente torna sottosegretario. Perché? Punto di domanda. Perché? Perché ce ne sono tantissimi altri che hanno abbandonato il FLI e non sono diventati sottosegretari. Beh, non moltissimi, non perché moltissimi. Non c'è posto per tutti, diciamo. Perché non c'è posto per tutti i sottosegretario, che erano mesi che avevamo anche una carenza per certi aspetti ingiustificabile, anche perché vi erano delle necessità, insomma, no? su alcune aree ancor di più, di avere in aula almeno un confronto col sottosegretario, in commissione un confronto col governo. Però Bellotti, perché... è chiaro che c'è stata un'operazione politica legittima che poi ha avuto una sua conclusione adesso, cioè se lei non avesse lasciato il PDL, aderito a Futuro Libertà. Probabilmente se non mi avessero visto fare un dribbling così forte, magari non passavo inosservato. Ecco, questo è interessante. Mettiamola sotto il profilo calcistico. Ho avuto visibilità grazie a questa cosa qui, giusto? Mettiamola sotto il profilo calcistico. Allora, il ci sono ricordati voi. Lei? Da... O no? Mi hanno notato. Giusto, lo dite voi, il giusto. Ma dite, no, dica qualcosa anche voi. Lei, perché se lo diciamo tutto a noi. Senti, sto perdendo la voce come voi, quindi. No, mi hanno. Lei dice coi miei dribbling mi hanno notato. Scusi un attimo, Bellotti, coi miei dribbling mi hanno notato, è corretto? Com'è? Con i miei dribbling mi hanno notato, è corretto? Guarda, io quello che ho fatto è sotto gli occhi di tutti, quindi poi dopo ognuno giudichi come vuole. Insomma, un giorno glielo chiederemo a Berlusconi. No, dai, poi, avremo ecco, ma la perché? Di chiederglielo a Berlusconi. Insomma, a Berlusconi quello che dice... Berlusconi, ma perché ti sei preso il sosia di Spalletti? Se cos'è una cosa... No, forse lo volevi nel Milan, punto di domanda? Glielo chiederemo. E perché se l'è preso? Perché è bravo e perché è tornato da Futuro Libertà del PDL, o no? Forse per questo. Ho scoperto uno. Ma perché non vi siete fatti anche un minimo di, visto che voi, no, sì, di sondaggio, no, sì, su di noi, nelle varie commissioni, come lavoriamo, cosa pensano i colleghi di noi, se andiamo un sondaggio su Bellotti di noi, sicuro, insomma, no? Comunque, vabbè, insomma, lei non vuole dire che è stata una ricompensa per questo passaggio, va bene, non c'è problema. Perché se pensassi che fosse ad uso esclusivo di ricompensa, prima non sarebbe manco nemmeno un minimo di è la di politica della Bellotti, cioè così è stata anche una storia politica personale, è un percorso. Io un percorso ce l'ho, poi. No, certo, però. Sì, ma non ci sarebbe nulla di male, cioè lei comunque è stato eletto. Senti, ma io penso che non ci sia comunque nulla di male. Appunto. A dire quello che penso, poi dopo. Senta. Ma detto, ritieni quello che pensi tu. Senta, una cosa un po' più leggera, no? Il suo leader, uno dei suoi, anzi no, il coordinatore del partito, lei è tornato nel PDL, sì? Come? Lei è tornato nel PDL, sì. PDL. Io sono tornato al PDL. Benissimo. Uno dei coordinatori si chiama La Russa, il quale l'altro giorno ha detto che insomma sostanzialmente a sinistra sono più racchie in Parlamento rispetto alle donne di centrodestra. Lei è d'accordo, signor Bellotti? E ha mai avuto una fidanzata di sinistra? No, queste sono ancora peggio delle domande precedenti. Beh, ho capito, però voglio dire, non è che l'ho detto io. Nulla, non è che l'ho detto io. Adesso Bellotti, devo non l'ho dire, detto io. Devo dire, insomma, io non mi attiro solo le zanzare, se rispondo, mi attiro pure le vespe. Avete presente le vespe? Ecco. Lo sappiamo, sì. Allora, ci dia una risposta. È vero o no che in Parlamento quelle di sinistra sono più racchie, come dice La Russa? No, allora io direi che le nostre sono più carine, ecco. Ah, vabbè, dunque ha ragione La Russa. Ha ragione La Russa. Ecco, le nostre sono leggermente più carine. Ma questo perché fate una scelta precisa. Sono carine tutte, le nostre forse già sono più carine. Ecco, ma scusi, si rifanno di più a destra o a sinistra? Come? Si rifanno di più a destra o a sinistra? Su questo devo pensare che forse siamo più al naturale verso sinistra, ecco siamo più a destra. Tecnologico verso destra. Bene. Noi abbiamo bisogno di, come dire, di persone che siano lì in Parlamento e che sappiano giudicare le parole che escono fuori. Dunque lei ci sta dicendo che è vero, quelle di destra sono più carine rispetto a quelle di sinistra e nello stesso tempo quelle di destra si rifanno di più rispetto a quelle di sinistra. Sono più tecnologiche rispetto a quelle. Esatto. Senta, un'altra cosa interessante è questa. Lei si è avvicinato qualche volta ai leader? La tecnologia bella è quella che non si vede, per cui le sorprese sono sempre pronte. Senta, ma si è mai avvicinato a un leader di centrosinistra lei? Cioè si è messo vicino, perché Berlusconi dice che puzzano un po'. No, beh, no, adesso assolutamente no. Io ho un mio amico che è Giordano. Sì. E che lo trovo sul piano personale una persona squisita. Beh, Giordano non è un leader del centro-sinistra, diciamo, è stato un leader di Rifondazione Comunista. Leader di partito, poi insomma, li conosco tutti, però insomma, non è che abbia una gran frequentazione, no? Comunque non è vero, come dice Berlusconi, che si lavano poco. No, beh, insomma, questo mi sembra esagerato, Anche per lei che è tornato, anche per lei che è tornato berlusconiano. E poi, se devo essere sincero, non credo proprio che Silvio, che Berlusconi abbia fatto una dichiarazioncina così. Ma io la faccio sentire. Oppure bisogna vedere in che contesto, ma magari vabbè. No, ma io la faccio sentire se vuole. No, vabbè, allora stavolta mi fido. Ecco, appunto, ha detto che si lavano meno, si lavano poco. Senta, ma che ha fatto lei? Ha stracciato la tessera di Free, cioè la tessera che aveva, l'ha stracciata, che ha fatto? L'ha buttata via, ha rispolverato con la PDL, che è successo? Non fossimo ancora arrivati alla formalizzazione delle tessere. Non eravate al tesseramento? Quindi non c'è stato questo supplizio, questo atto... Questo in qualche maniera di abbandono, ma Confini ci ha più parlato? Confini ho parlato il giorno dopo il congresso, due giorni dopo, e poi dopo col presidente non l'ho più incrociato. Non ha un po' di nostalgia per Fini, il suo leader, Mosè? C'è un po' di nostalgia per Fini come... Più che nostalgia, ho rimpianto per una persona che poteva veramente essere il futuro, poteva essere lui. E invece si è rovinato da solo, che ha fatto? E credo che purtroppo si è messo contro una parte importante di quelli che hanno fatto la storia della destra in Italia, insomma. E con queste manovre forse anche un po' minata la sua proverbiale credibilità, insomma. Ma chi è il killer di Fli? Chi è il killer di Futura Libertà, secondo lei? Bocchino? Quello che ha snaturato il progetto, il killer, usiamo un po' la metafora del killer. Sì, il killer, sì. No, io non uso nessuna... Killer nessuno, ma insomma nel trio Bocchino, Briguglio e Granata individuo persone che insomma il loro orientamento strategico nei confronti di Berlusconi totalizzante, insomma, no? Quindi primo obiettivo politico è Berlusconi. Cioè, sono fini e succube di questa triade? Ma io non so se sia succube, non credo sia succube, però purtroppo in molte occasioni l'ho visto allineato. Ecco, quindi... Allineato a questa... Allineato. Sento, un'ultimissima cosa le voglio chiedere, sempre a proposito delle donne, no? Donne di centrosinistra e di centrodestra. Si può dire che quelle di centrodestra sono, adesso uso una parola un po' forte, un po' più facili? Me la cavo pubblicamente dicendo non ho esperienza in merito. Come? Così, come? Cioè, sono più disponibili secondo lei? No, disponibili. Quelli di centrodestra rispetto a quelli di centrosinistra. In Parlamento, in Parlamento. No, beh, in Parlamento assolutamente, in Parlamento assolutamente no, assolutamente no. Non mi dica che non ci sono storie tra parlamentari. Dai, qualche amore tra i banchi lì tutto il giorno, noiosissimo. Sì, questo sembra che sembra anche una love story simpatica, anche carina, insomma, tra due colleghi. Quella lo sappiamo, ce ne sono altre? Ma qualcuno suggerisce di sì, io... Cioè, la più bella, chi le piace di più nel centro-sinistra a lei? Chi le piace di più? Sì, si sospetta qualcun altro, però non sono ancora riuscito a capire chi siano i colleghi. Senta, la più bella nel centro-sinistra, se ce n'è una bella nel centro-sinistra, in Parlamento chi è? Guardi, per tutte le cattiverie che si è beccata, dico la Rosy Bindi. No, vabbè, no. Non faccia politicamente corretto. Insomma, c'è anche la bellezza deve essere vista. Dunque, sbaglia Berlusconi ad attaccarla continuamente. Ma io credo che lo faccia anche in maniera divertente. Insomma. Beh, insomma. Devo chiudere, pubblicità, grazie Bellotti. Grazie. Grazie a voi. Grazie, pubblicità. Alla prossima. Siamo qui 20:37, caro Parenzo, aiutami. Allora, cosa facciamo? Mandiamo il TG di Ventana, così guadagniamo 7 minuti di voce. Va bene. Ascoltate come dice direttorissimo. Sì, va bene, la 7, titoli. Vai Ventana, vai, stupisci. Il Presidente della Repubblica ha un sogno, quello di un'Italia rispettata per la sua immagine civile e morale. Torna a raccomandare, la battaglia politica non sia guerra continua tra le parti e suggerisce a tutti, datevi da fare per la serenità del nostro Paese. E dopo le dure critiche ai PM alla sinistra, Berlusconi nega contrasti, nessun problema col Quirinale, ma tutte le opposizioni lo attaccano, Bersani con l'ironia, forse noi di sinistra non ci laviamo ma non abbiamo il parrucchino. E Cesa, UDC con la freddura, è un battutista, vada allora a Zelig. E la campagna elettorale si infuoca a Milano. Un confronto televisivo tra i due candidati principali finisce senza strette di mano e in tribunale. La Moratti, proprio nell'ultimo secondo, accusa Pisapia. Io sono moderata, lui rubò un'auto usata per un pestaggio. Lo sfidante replica, è falso, fui assolto e querela per diffamazione. Anche la Germania appoggia Mario Draghi alla guida della Banca Centrale Europea. La Merkel scende in campo, stiamo con lui. E sulla situazione economica arriva anche l'analisi del Fondo Monetario Internazionale. L'Italia è in ripresa, ma la crescita è modesta. Il direttore generale di Confindustria, Galli, fa mea culpa sugli applausi degli imprenditori al manager della ThyssenKrupp condannato per omicidio volontario. In studio alla 7 Galli parla di gesto sbagliato. Poi chiede scusa ai familiari delle vittime e del rogo e all'opinione pubblica ferita. In Libia i ribelli rifiutano la proposta dell'ONU e della NATO di cessato il fuoco. È troppo tardi, di Gheddafi non ci fidiamo, dicono. Oggi le truppe antiregime hanno riconquistato l'aeroporto di Misurata e progettano la marcia verso Tripoli. È ancora mistero sulla sorte del Rais. Fuggito, ferito, morto. Eccoci qua. Direi di andare a Giovanni da Pisa, l'imbelvito, buonasera. Ah, Giovanni da Cusciani. Come sta? Ha sentito che voce? Non c'è male. Non c'è mai, no, non c'è mai. Non c'è ho sentito che voce che ho. Per quella cosa della Moratti, per cosa vuole che mi indelvisca? Allora, no, non vorrei approfittarmi stasera del fatto che lei non ha voce, ma lei non si indigna mai, Cruciani. Ma ho l'impressione che lei lo faccia più per... non lo faccia per sentimento, ma lo faccia per scelta calcolata di non indelvisca. Perché come si fa a non indignarsi per una cosa del genere, Cruciani? Ma non c'è bisogno di che siamo prima. Andati avanti così per anni a non indignarsi e siamo arrivati a questo punto qui. Questo punto qui è un punto di una bassezza clamorosa, Cruciani. E lei no, forse non si rende conto. Ma cosa devo dire? Non ho capito più di dire che la Moratti ha fatto dal punto di vista mediatico una stupidaggine. Perché se n'è uscita con una. Io questo dico. Dico semplicemente che ha utilizzato un argomento. Che non è corretto perché tra l'altro la notizia si fermava al primo grado, all'amnistia, invece c'è stato un appello. Cosa bisogna dire di più, Giovanni? Non ho capito. Bisogna dire che la Moratti fa schifo, che mi fa orrore, non lo dico io, ma che cosa c'entra? No, è una cosa turpe, Cruciani, perché lei. Ma che significa una cosa turpe? Sì, è turpe, è ignominiosa, Cruciani, perché lei ha detto una cosa che non è vera, poi però. Questa è la cosa forse più tremenda, è il colpo dello scorpione, Cruciani. L'ha detto quando Pisapia non aveva più possibilità di replica. Sul gong, sì, ribadito ha ragione, sul gong, sul gong. Calcolata in maniera da serpente, Cruciani. Sì, ma ripeto, Giovanni... ha citato Berlusconi che disse quella cosa a Prodi dell'ICI. Sì, però Giovanni, mi scusi un attimo. Non aveva più la replica. Scusi un attimo, Giovanni. Sì, Giovanni. Sì, ma il punto è molto semplice. Cioè, utilizzare l'ultimo intervento va benissimo, però bisogna dire le cose corrette. Cioè, non è sbagliato assestare un colpo all'ultimo intervento, quando uno ha l'ultima parola, perché fa parte del gioco. È sbagliato utilizzare un argomento finto, falso. Cruciani, è un gioco, no, Cruciani, non ci sto a questa cosa qui. Ma no, ma è vero che è così, ma in tutti i confronti, Imbervito. Imbervito? Che cosa dice Parezzo? No, scusami, Imbervito, volevo dirti, Imbervito, questa roba qua, cioè che ha ragione Cruciani, anche nei confronti all'americana, alla fine la sberla finale ci può stare, ma la sberla deve essere giusta, lì è stata data una notizia falsa, per questo io mi arrabbio, mi incazzo da morire, perché ha dato una notizia falsa e verrà querelata e dovrà vendere mezzo Inter per pagare, no, l'Inter di quell'altro signore. Non c'entra niente. Niente, vende l'Inter, dovrà vendere un po' di dovrà pompare un po' di petrolio in più per pagare il signor Pisapia, che si farà un'altra casa in enorme, bellissima, grazie ai soldi della Moratti, questo è evidente, perché ha detto una cosa falsa. Ma ci sta che nel gioco del duello televisivo alla fine c'è questa stilettata, ci può stare questo? Dov'è il problema? È che è una notizia falsa, questo è il punto. Il problema c'è, insomma, ragazzi, il problema c'è, per me forse sono più anziano di voi, molto più anziano, il problema c'è, insomma, allora ti sapete, è stato un signore perché non ha citato il figlio, quella cosa che aveva fatto. Insomma, se si può usare tutto, si arriva a questi punti qui. E questi punti qui, secondo me, sono di una bassezza inarrivabile. E se voi mi dite che che in America succeda queste cose qui, non sono d'accordo. No, che ci sta che l'ultimo che parla dà la stilettata finale, ma a patto che la stilettata ma sia vera. Ma questa non è la stilettata, Parenzo, è una cosa vergognosa, è una cosa ma che non l'avessi avuta per le mani. Scusami, l'avrei strozzata con le mie mani e facevo a meno di fare il sindaco di Milano pur di vendicarmi al momento, perché ma scusami, io sono una persona che si incazza come una bestia. Cruciani. Mamma, mi fai andare ai matti, Imbervito. Mi fai andare ai matti. T'ho detto che hai ragione. È una cosa che va al di là. Non è la solita cosa che si può dire o non si può dire. Il fatto è che cosa sia falsa, l'abbiamo già il detto. Fatto che sia sbagliata e che sia quindi non vera è importantissimo. Se non è la prima cosa, Parenzo, se lei non ha questa sensibilità. Ma l'ho detto, dispiace, in belli, l'ho appena detto. Mi dispiace. Oh, mamma mia. Sì, però Giovanni, non capisco cosa pretende lei. Cioè che noi... No, pretendo che questa sia catalogata fra una di quelle cose fuori. capito? Una di quelle cose fuori Cruciani, perché se no non c'è niente fuori Cruciani, lo capisce che non c'è più niente. Sono anni che si fanno questi discorsi qui e si va sempre peggio. Io un anno e mezzo fa di parlare di un basso impero, questo qui è peggio di un basso impero. Basso impero vuol dire, Cruciani, parliamoci chiaro, corruzione, prostituzione e ricatti. Questo è il basso impero. In questo caso, scusi un attimo, in questo caso noi non c'è. Siamo in questo basso impero e in questo basso impero ricamiamo con queste con queste uscite, in maniera che si arriva a una cosa che non è più basso impero. Va al di là, Cruciani, è over. Se non capisci che è over, a me mi dispiace. Cosa ma non sto dicendo. Devo dire che è over. Ah, over, avevo capito, over. Ma abbiamo detto che ha detto una cosa falsa. Ha sbagliato perché ha detto una cosa falsa. No, ma non è falsa. È falsa, no. Ma... Guardi, è volgare, è di più di falsa. Ma che c'entra la volgarità? Che c'entra? Uno la dice e sbaglia e ne paga ma le che c'entra la volgarità? Su scusi. Questa cosa qui, Cruciani e Parenzo, lei non paga. Io spero che paghi le conseguenze in maniera clamorosa e sta ma però sicuro. Una bottiglia di champagne. Però probabilmente può darsi che non la paghi. E il fatto che non la paghi a me mi fa andare fuori perché ci è una cosa. No, fermi. Una cosa fermi. Che non si può nominare. Giovanni, fermi. Non c'è il nome. È no. Lui che Parenzo mi dica che è una cosa Giovanni. Falsa. È perfettamente logico Giovanni, che sia falsa. Giovanni, è una Giovanni. Cosa obbiosa, ma è di più di falsa. Giovanni, se su questa cosa la Moratti pagherà o no, non lo decidiamo né io, né lei, né Parenzo. Lo decideranno gli elettori, punto. Traffico. Bene, andiamo a Milano. Agostino, buonasera. Agostino? Pronto? Maurizio, Torino. Sì, ci sono. Eccoci. Allora, un po' di considerazioni. Do ragione a voi con l'ascoltatore Giovanni, nel senso, Giovanni ha ragione su tutto quello che dice, tranne il fatto che poi la cosa è falsa, voi l'avete detto, sottolineato 160 volte. Poi sul fatto che la politica sia una bassezza paurosa, tutti d'accordo, però ha detto una cosa falsa, voi l'avete sottolineato mille volte. Ma il problema è un altro, cioè i colpi bassi in politica si danno pure, non è il problema, cioè non è il fatto di utilizzare gli ultimi secondi. Però vi ricordate Berlusconi con Prodi che disse nell'ultimo intervento abolirò l'ICI, anche quello fu una, come si può dire, una poi l'ha fatto, ma quello l'ha fatto. Dico, però fu quello poi la genialata. Peccato che stavolta la Moratti abbia preso probabilmente, ma ha detto una cosa scorretta e falsa, esatto, questo è il problema. Esatto, sono d'accordissimo con voi. Poi la giustificazione è peggiore, perché a un certo punto oggi ha detto mi riferivo alla condanna in primo grado, al pronunciamento in primo grado. Che è il contrario di quella che è la filosofia del PDL in teoria, no? Certo, assolutamente, sono garantisti in genere, sempre adesso citano le sentenze. Cioè le il contesto era quello, il contesto era quello della Corte d'Assise, invece poi la soluzione in appello intervenuta dopo l'amnistia non conta secondo lei. Vabbè. Ma a maggior ragione Pisapia, che tra l'altro sceglie di andare in appello perché sa di avere ragione, perché sa di non aver commesso il fatto, e la sentenza di appello gli dà ragione, quindi lui non si accontenta dell'amnistia. Questo è l'altro punto politico che abbiamo spiegato, però dopodiché chi se ne frega, poi la gente ascolta, sa, legge i giornali e quindi... E poi oggi la Lega, questa sera la Lega ha preso le distanze dicendo non ci occupiamo del 68, di problemi che riguardano gli anni 70, no? Perché chi se ne frega di quello che è successo a Pisapia negli anni 70, a meno che non sia una cosa di una gravità enorme, e per carità le accuse erano anche gravi, però insomma dai, su, andiamo avanti. Assolto in appello. All'ascoltatore di prima, un po' precedente, cioè mezz'oretta fa, che diceva che lui voterà Berlusconi perché è forzato. Dico che se non voti Berlusconi non è che devi per forza votare la sinistra, ci sono altre alternative, in primo luogo. Seconda cosa, il fatto di Berlusconi che dice con la sinistra saremo meno liberi. Io voglio ricordare a chi ascolta, voi penso che lo sappiate, siamo 72esimi per Freedom House nella libertà di informazione. Grazie. Vabbè, no. Questa è una stupidaggine, Freedom House no. Freedom House, Freedom House lasciamola perdere, no, lasciamola Freedom casa. House. Ecco, lasciamola a casa, ecco, Freedom House, lasciamola a casa sua. Paese, è una boiata, quella è una boiata. C'è internet, ci sono giornali, radio, televisione. Quella è una boiata, Maurizio. Dai, è una boiata quella. Cruciani, il conflitto di interesse che abbiamo noi per quel che riguarda l'informazione con Berlusconi è una cosa unica in Europa. Quello questo almeno me lo passa, me lo sì, passa. Sì, quella classifica è una boiata, sì. Però quella classifica è una boiata. Non lo so fino a che punto sono boiata. In ultimo luogo, Bellotti, giusto? Bellotti. Io vorrei vorrei che uno, qualsiasi esso sia, sottosegretario che ha avuto la fortuna di essere messo lì perché ha fatto il passaggio da FLI a TDL, dicesse sì, l'ho fatto perché me l'ha dato questa poltrona perché ho fatto il passaggio. Non per dire tutti i labirinti di parole per giustificarsi, per un po' di sincerità. Ma l'ha un po' detto Bellotti. Ma sì, me l'avete detto fuori con le pinze proprio all'ultimo, però è tristissimo. E il fatto è che ormai in Italia sono tutti così. Lui si giustificava dicendo che non ha mai stato denunciato e non ha mai denunciato. Io sinceramente, se mi dicessero delle cose, se virgolettassero sul giornale delle cose che non ho mai dette, io denuncerei, dico la verità. Vabbè, quello poi ognuno fa quello che vuole, Maurizio. Per carità, però nel senso che se va a toccare la mia onorabilità di politico e di persona, io mi tutelerò in quel modo. L'ultima osservazione, che ha ragione Giovanni, che ormai la politica in Italia è di una bassezza paurosa, cioè nel senso che si è arrivati a giustificare il tutto, a non indignarsi più per niente. Non è il vostro lavoro, secondo me, voi non voglio farvi la barba, lo fate benissimo, però i giornalisti vorrei che avessero un pochettino più di pelo sullo stomaco, un po' meno fossero servi e tirassero fuori quelle domande che molte volte mancano. Non c'è nessun servo qua, Maurizio. Non c'è nessun servo, grazie. Andiamo a Prato, Walter. Giovanni, come va? Sì, non c'è male. Io volevo anche aggiungere che effettivamente la Moratti sapeva perfettamente che poi Pisapia era stato assolto nel merito. Lei dice? Quindi l'ha detto lo stesso. Non lo so, anche questo è in dubbio. Sì, perché poi nel secondo grado ho sentito io mentre stava parlando e Pisapia era lì che si stava, cioè balbettava delle cose perché sapeva che era sprovvista, ma era vigliacca. Guardi, non lo so se lo sapeva. Non glielo so dire. Se lo sapeva ha commesso un autogol clamoroso, Cruciani ha ragione poi nel dire che sabato, domenica e lunedì decideranno gli elettori e valuteranno anche su questo, perché ne stanno parlando tutti, per cui voglio dire... Walter, dica! Sì, no, dicevo questo, le Moratti, tutte e due, usufruiscono di un vantaggio, nel senso che sia la Milly Moratti, sia la Moratti Letizia, in verità non sono Moratti, sono acquisite ai Moratti. Ho capito che devono fare, Walter. C'è stato un ascoltatore precedentemente ha detto, dice, ma lei probabilmente ha fatto un po' la furbetta, usa il suo nome per fare politica, no? Altrettanto lo fa la Letizia Moratti questo. Io sono dalla parte della Milly comunque, anche se questo a Radio 24 mi interessa. Una cosa importante, però, una cosa importante, sì, sulla questione della politica. Cioè, questo modo, io sono d'accordo con Giovanni e con Maurizio precedentemente, questo modo di fare politica, dove oggi si dice una cosa e domani si dice che non si è detta, è un costume che non ci porta da nessuna parte, anche come democrazia. Bene, grazie Walter. Devo chiudere, a domani, speriamo di stare meglio. Curati, mi raccomando. Arrivederci, Giovanni, saluti. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me la segni proprio, c'è una cosa... Non mi preoccupare. Radio 24. La passione si sente.